do il benvenuto ad Enza Negroni, presidente DER Documentaristi Emilia Romagna. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sulla piattaforma digitale Documentando, archivio del documentario italiano, viene offerta una selezione di titoli in occasione della giornata della memoria. Siamo qui per parlarne proprio con Enza Negroni e, insomma, tra documentari che riguardano la storia di Bologna e documentari anche sulla resistenza al femminile, ti va, Enza, di raccontarci un po' la proposta appunto per la giornata della memoria di Documentando? Certo, molto volentieri. Documentando.org è la piattaforma del documentario italiano che raccoglie più di 170 film proprio per questi eventi importanti come la giornata della memoria. Abbiamo preparato alcuni titoli di interesse. Il primo è Caserme Rosse, il lager di Bologna, un film del 2009 di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari. È un film che è stato anche trasmesso da Rai 3 e ha fatto alcuni festival internazionali e racconta, ma forse molti cittadini bolognesi lo conoscono, il lager che è stato abbastanza dimenticato delle Caserme Rosse a Bologna. È un lager che era un luogo di smistamento tenuto dai nazisti, e da lì sono transitate almeno 36.000 persone, fra ebrei, uomini, donne, anche partigiani, e quindi è un luogo dove non sono successi, oppure forse nel documentario si ipotizza anche che siano anche successe le uccisioni, degli omicidi, e però soprattutto era un luogo di smistamento. Oltre questo, so che in catalogo c'è anche appunto un film sulla resistenza al femminile. Sì, abbiamo un autore che è Primo Giroldini di Parma, che ha realizzato una trilogia, un progetto intitolato Archivi audiovisivi della memoria, ed è stato anche realizzato in collaborazione con l'ISREC di Parma e del progetto Effetto Notte. E sono tre documentari. Il primo è Io sono ancora là, sulla deportazione nel lager di Mauthausen. Patrioti ribelli, invece, sulle lotte partigiane della provincia di Parma. E il film invece sulla resistenza femminile, sempre di quelle zone, Eravamo donne ribelli. E quindi, diciamo, c'è un'ampia scelta se uno vuole partecipare da casa attraverso la smart TV o il computer o lo smartphone o l'iPad, di vedere questi documentari che sono, ricordiamolo, gratuiti. La piattaforma è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e anche dalla Fondazione del Monte, che hanno creduto in questo progetto di archivio digitale. Infatti ti volevo chiedere, Enza, proprio come si può accedere allo streaming. Ci raccontavi adesso che è appunto gratuito. Sì, abbiamo anche escluso l'iscrizione. Di conseguenza, accedendo direttamente alla piattaforma documentando.org, perché appunto non è a fini di lucro questo progetto, si entra direttamente senza iscrizione e si possono vedere i film in streaming, metterli in pausa, fare quello che si vuole, non scaricarli, perché questo chiaramente non è possibile, però si possono vedere in streaming tranquillamente a qualsiasi ora, e ogni mese noi ne lanciamo di nuovi di film, in modo tale che la piattaforma inizi un po' a essere un punto di riferimento per chi ama il documentario e le inchieste. Perfetto, Enza, io ti ringrazio veramente per averci raccontato la vostra offerta per quanto riguarda la giornata della memoria, ma insomma so che ci sono veramente tantissimi documentari, quindi in generale invito veramente tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad andare a dare un'occhiata appunto a Documentando. Grazie ancora, Enza. Grazie, buona giornata a tutti voi.